L'impero non può attendere. Strapoteri locali. Strapoteri locali. Usurpando, abbiamo detto, ma bisogna pur dire che per molti anni i predecessori del Barbarossa avevano chiuso un occhio. Assorbiti com'erano dalla fatica mai conclusa di tenere a bada i principi tedeschi e di riaffermare il proprio ascendente universale sulla cristianità contro le analoghe e concorrenti pretese dei papi, quegli imperatori avevano accettato di buon grado che le città lombarde si organizzassero come volevano. A loro, in fondo, bastava che quando scendevano in Italia per l'incoronazione romana, le strade fossero sicure, i ponti riparati, i mercati pieni di vettovaglie. Bastava che al loro passaggio le autorità locali facessero atto di sottomissione e pagassero quelle imposte in natura, in fieno, pane, carne e vino, che servivano a mantenere il sovrano e la sua cavalleria. Se i cittadini, associandosi e dando vita alle proprie magistrature, che chiamavano con il nome di comuni, erano in grado di garantire tutto ciò come e meglio dei vescovi, l'imperatore non aveva motivo di protestare. Anzi, e infatti i predecessori del Barbarossa avevano rilasciato di buon grado diplomi in cui garantivano ai cittadini il rispetto delle buone usanze, come si amava dire, che essi avevano introdotto nel governo delle loro città. Ma il Barbarossa aveva ragione di credere che 50 anni di indulgenza fossero stati troppi. Per quanto le notizie dell'Italia arrivassero a fatica in Germania, l'imperatore sapeva che le associazioni giurate dei cittadini non si accontentavano di mantenere l'ordine pubblico, regolamentare i prezzi e riscuotere imposte all'interno delle mura, ma avevano ormai affermato la loro egemonia nelle campagne, costringendo i nobili rurali a sottomettersi, a diventare cittadini a se stessi, a mettere a disposizione i loro castelli per la guerra e a lasciar tassare i loro contadini. Ottone di Frisinga, anche in questo caso, seppe ben descrivere la situazione che si era creata in Lombardia, indispensabile agli occhi di un magnate tedesco. «Laggiù», scrisse, «il paese è praticamente tutto diviso fra le città e ciascuna ha costretto gli abitanti delle diocesi a schierarsi dalla sua parte, tanto che a stento si trova in un'area così vasta un qualche personaggio importante che non segua gli ordini della sua città». Non erano queste le buone consuetudini e le pacifiche usanze che i predecessori del Barbarossa avevano riconosciuto ai comuni. La conquista del contado, come la chiamano gli storici, da parte delle città, significava che ad ogni momento erano violati con le minacce o con la forza i diritti di pacifici signori rurali o, ancor peggio, dei conti o marchesi, diretti vassalli dell'imperatore. Le loro lamentele erano echeggiate già più di una volta in queste riunioni, chiamate diete, in cui l'imperatore convocava i suoi vescovi e i suoi principi per discutere le necessità dell'impero. Lo strappo di lodi. Come se non bastasse, poi le città lombarde, padrone di ampi territori, arricchiti dai traffici e ben munite di risorse militari, avevano addirittura cominciato a combattersi fra loro, e le più grandi minacciavano di soffocare le più piccole. Una, specialmente Milano, suscitava ovunque proteste e preoccupazioni con le sue continue prepotenze. Proprio questa era la ragione immediata che aveva persuaso il sovrano ad affrettare il suo viaggio in Italia. Poco dopo la sua incoronazione a re di Germania, il Barbarossa aveva convocato una dieta a Costanza e lì erano comparsi gli inviati di Lodi, appunto una di quelle piccole città che vedevano i loro commerci e la loro stessa sopravvivenza minacciati dall'ascesa di Milano. Parlando in tedesco, quelli di Lodi avevano implorato il sovrano di difenderli, come era suo dovere, da quelle violenze, e Federico, senza ancora valutare fino in fondo, forse, la gravità della situazione, aveva spedito a Milano un suo rappresentante, munito di credenziali col sigillo imperiale, in cui si ingiungeva a tutti di prestargli obbedienza. Ma i milanesi stracciarono le lettere dell'imperatore e per poco non fecero la pelle all'inviato, costringendolo a ripassare in gran fetta le Alpi. Quando costui raccontò in quanta reverenza fosse tenuta laggiù l'autorità imperiale, riferisce un cronista: il re e i principi furono mosse da grandissima ira e dolore, come una scintilla di fuoco incendia l'intera casa. Così le sue parole accesero il cuore del re e di tutti i principi, e subito decisero di venire in Lombardia con un grande esercito. Ammettiamo pure che il cronista non fosse troppo imparziale, già che era di Lodi, ma è certo che la necessità di regolare i conti con Milano figurò ai primi posti, a partire da allora sull'agenda politica del sovrano. Un problema politico. Era tempo di andare a dare un'occhiata di persona a quel che stava succedendo laggiù, e il Barbarossa decise che la prossima dieta non si sarebbe riunita in Germania, ma in Italia, a Roncaglia, presso Piacenza, per la festa di San Michele dell'anno successivo, cioè il 29 settembre 1154. I preparativi del viaggio richiesero poi più tempo del previsto, ma nell'ottobre di quell'anno, appena un po' in ritardo, l'imperatore era già al Brennero. Questa dunque è l'occasione che, come una scintilla, per raccogliere l'immagine del cronista lodigiano, accese un falò destinato a bruciare per oltre un secolo e mezzo, talvolta covando sotto la cenere, talvolta minacciando invece di ardere tutta l'Italia nelle sue fiamme. La guerra, cioè, fra gli imperatori e le città italiane, riunite in quell'alleanza che conosciamo con il nome di Lega Lombarda. Ma l'azione del Barbarossa e la sfida che gli pose i comuni insubordinati devono essere valutate e comprese in una prospettiva ben più vasta, non solamente quella di un despota deciso a punire la sfacciataggine dei sudditi ribelli, né quella di un reazionario intento a difendere, contro le nuove forze borghesi emergenti, un ordine feudale ormai sorpassato. E soprattutto, non quella, cara alla nostra tradizione risorgimentale, di un re straniero deciso a soggiogare gli italiani. Federico Barbarossa, che nelle pagine dei nostri vecchi storici appare il più delle volte difficilmente distinguibile dal maresciallo Radeschi, era in realtà il portatore di un progetto politico fortemente innovativo e soprattutto al passo coi tempi.